La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле. L'ascoltatrice Alessandra Visser ci scrive: anche stasera Barbara Alberti ci legge letteratura russa. Che incubo! È sempre un piacere ascoltarla, ma è davvero un peccato che non si occupi di altri autori e paesi. Non pretendo Derrida, no, non lo pretenda signora, ma un salto nella Francia di fine 800, poeti per esempio. Senta, Alessandra, io credo che lei sia stata molto sfortunata, cioè ogni volta che ci ha ascoltato poco e ogni volta le è capitato, non so, Majakovskij, Jesenin, perché invece sbaglia, perché abbiamo parlato e letto Verlaine, Baudelaire, Balzac, Chaudrelot-Laclos, non so, abbiamo parlato del Rinascimento di Harlem, poeti inglesi dell'Ottocento e del Novecento a vagoni, ungheresi come Andreadi, italiani, Tommaso Campanella, Michelangelo, Leopardi, a secchiate, vivi e morti. Cervantes, Ovidio, ancora? E poi ogni tanto capita, mi perdoni, ho una predilezione, Pushkin, Gogol, Lieskov e via dicendo, Tolstoi. Ma ancora, abbiamo parlato di Virginia Woolf, di Raymond Lull. Allora, no, penso di averla punita abbastanza con questa lista. E comunque per la sua gioia, oggi parleremo di un autore inglese. E mi diverto a dire questa cosa così sommessa, autore inglese, come se fosse... E invece si tratta di Lord Byron. Chi era costui? Lo conoscono tutti, no? Di nome il genio romantico, l'eroe zoppo, il maledetto, l'incestuoso, l'amante della sorella, appunto. E quasi 200 anni dopo la sua morte è ancora vivissima la sua fama di grande seduttore. Ebbe anche una figlia con la cognata di Shelley. L'idea comune, si sa che qualche volta si invaghiva anche di qualche ragazzo, ma certo il suo amore per la Grecia antica, per i suoi usi. C'è chi lo conosce meglio che dice, beh, lo credo, che ogni tanto si volgeva ai ragazzi, perché le donne sono state spietate con Byron. Lo inseguivano, gli tendevano agguati, si travestivano per giacersi con lui, esemplare questo corteggiamento petulante e indecoroso di Claire Claremont, sorella di Mary Shelley, moglie di Shelley. E ancora più famosi i trucchi di Lady Caroline Lamb, che lo perseguitò con una protervia davvero aguzzino, perché Caroline non voleva lui, voleva essere Byron, credeva ad essere Byron. E poi Anne Isabel Milbank, sua moglie, la torturatrice col sorriso che si finge vittima. Nelle sue lunghe peregrinazioni fra Albania, Turchia, Grecia, Spagna, Italia, appena arrivava in un posto, la popolazione femminile si armava, si metteva su piede di guerra e tutte se lo contendevano, ognuna ne voleva un pezzo. Le donne lo usavano come un giocattolo della trasgressione. Poche hanno visto in lui una persona, quella persona. Dopo 200 anni, appunto, perdura la fama e perdura la grande menzogna. Finalmente è uscito un libro, un breve, gran bel libro di Franco Buffoni che ci dà un'altra visione. Chi lo abbia un po' in intimità sa come si finisca per averlo caro, per volergli bene come un parente, perché c'è una tale simpatia umana in lui e così amabile con chi ama. Questo grande gentiluomo col senso dell'onore, attentissimo al prossimo, povero Byron, troppo probo per essere un demone. Byron, il coraggioso, l'elegante, il rivoluzionario, il bastonato, l'infinitamente spiritoso, il nuotatore mistico e, insisto, così spiritoso, con questo dono che è l'umorismo. Uno che ha una visione superiore della verità, uno dei palcoscenici di Byron che ce lo rende più irresistibile è la Camera dei Lord. Con le sue arringhe ferventi per la giustizia sociale, politicamente lucidissimo, intuisce il massacro dell'era industriale, dove l'uomo vale meno del prodotto, e si ribella alle leggi sui telai. Adesso è lungo raccontare, basti sapere che se un telaio viene danneggiato, l'operaio pagherà con la vita. E Byron, romantico, illuminista e grande satirico, scrive fingendo d'essere contro gli operai, con un artificio elementare ed efficacissimo, e scrive: quelle canaglie, i tessitori, oppongono resistenza. chiedendo in nome della carità un po' d'assistenza. Forse i furfanti ricorreranno alla rapina se li impicchiamo per la rottura di una bobina. Si risparmieranno i soldi e il denaro del governo. Gli uomini si fabbricano più facilmente del macchinario. Le calze sono quotate a prezzi migliori della vita. Le forche di Sherwood miglioreranno lo scenario, mostrando come fioriscano libertà e commercio. Byron, che muore a 36 anni, l'età fatale per i poeti. La lista è lunghissima, basti citare Majakovskij, Gozzano, Rimbaud, Leopardi, Pushkin. Byron, questo nomade generoso coi popoli e coi singoli, lo troviamo nel 1821 in Italia coi carbonari, sostenitore e finanziatore, perché lui paga con le sue risorse umane ed economiche, non è che chiacchiera, non è come si dice oggi un indivanato. Nel 1823, eccolo, nella Grecia oppressa dall'impero ottomano, lui aveva questa capacità meccanica di congiungersi carnalmente con chiunque. Byron, quest'uomo che nei ritratti è sempre un altro, in quello famosissimo in costume albanese è un giovane principe orientale, in quell'altro attribuito alla Vigée Lebrun ricorda il giovane Napoleone, in un altro è un bambolotto ricciuto con sto viso di porcellana e un po' di pancia. Ma chi è Byron? Nessun poeta, credo, sia mai andato di moda come lui, nemmeno Oscar Wilde, e di moda nei secoli. Penso a Pushkin, ad Alexander Pushkin, che vive nell'aura di Childe Harold e dorme col libro sotto il cuscino, sperando di esserne ispirato. E poi Byron, tradito dalla famiglia, dagli amici, dopo la morte, col rogo delle sue carte. Come Majakovskij, dopo la morte il poeta viene consegnato al suo nemico naturale, la famiglia. Molte vite di poeti finiscono con un rogo, anche autoroghi, pensiamo al pazzo Gogol, ma in questo caso si tratta del rogo del suo diario, operato in fretta per paura da quelli che gli erano più vicini, e questi amici erano il suo editore, l'amico Hobhouse, la sorella, e questo rogo ha favorito l'equivoco della sua persona, più che favorito, determinato proprio, e la menzogna che si continua a raccontare sul senso della sua storia di uomo. E adesso, dopo la pausa, riprenderemo con l'intervista a Franco Buffoni, autore del Servo di Byron, Fazzi editore, che finalmente ci dirà delle verità su Byron. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. Il Servo di Byron, di Franco Buffoni, pubblicato da Fazzi editore, ci racconta finalmente la verità. Ci restituisce un Byron al quale volere ancora più bene, perché è lui veramente, non una contraffazione. È tenacissimo il vizio della cultura ufficiale di proteggere i grandi dalla propria esistenza. Il libro di Buffoni si avvale di un artificio letterario a me particolarmente caro, il personaggio servile, il servo Fletcher, che seguirà Lord Byron dall'adolescenza al giorno della fine. Quando l'ho letto, questa bella scrittura, questa abile capacità romanzesca di portarci dentro il protagonista, ho subito posto lo scrittore Buffoni nell'Olimpo degli irraggiungibili. E invece Gloria Guerrera è riuscita a raggiungerlo e ce lo abbiamo al telefono. C'è Franco Buffoni? Sì. Buongiorno. Buongiorno Franco. Buongiorno. Senta, io non ho parlato del suo libro apposta perché spero che ce ne parli lei. Prendo comunque spunto da alcune cose che lei ha già detto, in particolare la questione dei ritratti, perché è verissimo che Byron curava molto attentamente i propri ritratti, che erano richiesti in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Europa e anche oltre, e aveva una cura maniacale dell'immagine. E questo svela anche un aspetto del carattere, una parte, diciamo, isterica, narcisistica. Dopodiché sono assolutamente d'accordo, è una persona di grandissima simpatia e era caldo, nel senso che si innamorava delle lingue, si innamorava dei dialetti, oltre che delle persone. Ecco, io in questo libro appunto ricorro all'espediente del servo, che comunque è un vero personaggio, veramente esistito, si chiama William Fletcher, era coetaneo di Byron. Byron lo conosce quando ha 16 anni e sta facendo fieno nella tenuta in Scozia, vede questo ragazzo, se ne innamora e gli chiede: vuoi diventare il mio paggio? E quello lo guarda un po' ironico, un po' contento, e gli dice: your servant, e da quel momento non lo lascerà più. Saranno insieme per 20 anni, fino ai 36 anni della morte di Byron. Il servo gli sopravvive, perché storicamente gli sopravvive, ci sono testimonianze appunto della sua partecipazione al funerale, poi non si sa più nulla. E io immagino che negli anni successivi questo servo racconti le memorie, racconti la vita sua e quindi la vita del padrone, ma la vita vera, quella che nelle biografie ufficiali non appare. E quindi ecco che qui rientra l'altro punto dei diari di Byron, che sono stati completamente distrutti dall'esecutore testamentario e amico coetaneo di Byron, anche quello Hobhouse, e dalla sorellastra Augusta Lee, che nell'adolescenza era anche stata appunto quella che lo aveva iniziato agli amori diciamo eterosessuali. Augusta aveva appunto aveva un altro padre, era figlia della stessa madre, era di 5 anni più grande, quindi questo incesto in qualche modo la società inglese poteva accoglierlo, e Byron fece leva su questo incesto perché era la cosa proibita di cui comunque si poteva parlare, in sostanza la pubblicizzò, mentre non si poteva parlare dei legami omosessuali, oggi diremmo gay, insomma. E tra l'altro questo aggettivo all'epoca nella schiera degli iniziati a Cambridge era già usato nell'accezione moderna. Quindi questi diari vengono bruciati nel caminetto dell'editore, perché erano già in possesso dell'editore Murray, proprio per preservare la reputazione di Byron, in quanto egli raccontava nei diari la sua vera storia. E io immagino che il servo, che accudiva il padrone giornalmente, che quindi aveva accesso a tutte le carte del padrone, portava le lettere e quant'altro, conoscesse il contenuto dei diari. Ahimè, si è perso lo stile, e in letteratura si sa lo stile è tutto, però io gli faccio raccontare ciò che questi diari contenevano. E cosa contenevano? Contenevano la verità. In realtà Byron ha una sensibilità omosessuale, è une machine à baiser, per cui Byron poteva avere rapporti sessuali anche più volte al giorno con persone di entrambi i sessi, ma l'innamoramento l'ha sempre avuto solo per i ragazzi. Questo a partire dagli anni del collegio, noi diremmo del liceo a Harrow, poi dell'università a Cambridge, sino all'ultimo grandissimo amore che ha avuto in Grecia nell'anno della morte, 23-24, con Lucas Chandritzanos, che era un giovane patriota greco. E quindi io distingo molto, faccio sì che il servo distingua molto tra l'aspetto emotivo dell'innamoramento e invece l'atto meccanico che egli compiva tranquillamente con serve lavandaie e anche con contesse come la contessa Teresa Gamba, sposata al conte Guiccioli, l'uomo più ricco della Romagna, anziano, che tollerava tranquillamente ci fosse un cavalier servente, ma in realtà Byron, che pure era amante della giovane contessa Teresa Gamba, era in realtà innamorato del fratello Pietro Gamba, che lo introduce nella carboneria, giovanissimo e brillantissimo fratello, perché stiamo parlando di persone eccezionali, col quale usciva a cavallo la mattina presto nella tinetta di Ravenna e col quale poi partirà per la Grecia, perché quando Byron si innamorava fino in fondo, ecco. E tra l'altro con Pietro Gamba non c'è un amore consumato, ma c'è questo amore febbrile che lo porta, e Byron non sapeva nemmeno dell'esistenza della carboneria. Eppure viene ad essere coinvolto emotivamente, e quindi è un'offerta d'amore anche quella. Assolutamente sì. E quindi io userei il verbo che lei, Alberti, ha usato poco fa a proposito della distruzione dei diari: proteggere, cioè per proteggerne la memoria è stata distrutta forse la parte più brillante della sua produzione letteraria, perché Byron poeta oggi è leggibile solo in parte. La parte più brillante, più vivace, è la scrittura in prosa di Byron, tanto più vivace quanto più spontanea. Quello che ci resta dell'epistolario e qualche frammento dei diari lo dimostra. Sarebbe stata l'opera che avrebbe consegnato veramente Byron ai posteri, perché come poeta sicuramente è maggiore di Byron Shelley ed è maggiore di Byron Keats, parlo della seconda generazione romantica inglese, ma Byron prosatore immediato era insuperabile, ecco. E questo è un peccato storico. E torno a quel verbo, proteggere, che lei ha detto. Ecco, che vuol dire distruggere? Per proteggerne la reputazione. Per proteggerne la verità, la realtà. Esatto, perché era talmente disdicevole il fatto che passasse una sensibilità omosessuale che si doveva cancellarla a tutti i costi. Questo nel 1824, quanto avviene la distruzione, ma questa mentalità prosegue per oltre un secolo. In Inghilterra l'omosessualità è diventata legale solo nel 1967, non è più reato dal 67 e in Scozia addirittura dal 1980. Le pene che lei racconta nel libro sono agghiaccianti. Sì, sono terribili, perché poi a fine secolo, parlo dell'Ottocento, con Wilde arrivano i 2 anni di carcere duro, dopo i quali 2 anni di carcere duro Wilde muore, ma nel terzo e nel secondo decennio dell'Ottocento, che sono quelli legati alla biografia di Byron, erano ancora in vigore pene ben più dure, cioè l'impiccagione preceduta da gogna. E la gogna, che per un ladro o un falsario poteva essere quasi una innocente passerella, perché i ladri e i falsari erano simpatici al popolino, per un omosessuale, allora chiamato sodomita, veniva ad essere quasi una pena di morte in se stessa, perché venivano legati al collo e alle mani e il popolino poteva gettare addosso a questi disgraziati per ore qualunque oggetto, qualunque, buttavano carogne di animali morti, buttavano, le più scatenate erano le pescivendole che stoccavano da giorni gli avanzi putrescenti per poterli gettare in faccia a queste persone, e le prostitute che li accusavano di concorrenza sleale. E quindi anche pietre, sassi, per cui in alcuni casi... Era un lento linciaggio. Sì, era un linciaggio legale, e ci sono state voci che si sono levate anche in Parlamento per l'abolizione della gogna, ma questo è continuato fino a oltre metà Ottocento, ma ripeto, poi dopo si passava a 2 anni di carcere duro per atti omosessuali tra adulti consenzienti. Ma era un paradiso stiamo... rispetto ai tempi di Byron, comunque, voglio dire. Sì, ma paradossalmente succedeva che poi venivano a fare il grand tour nei paesi mediterranei, in particolare in Italia, trovavano appunto città come Venezia, come Roma, dove c'era la totale disponibilità dei nativi, e questi passavano per il paradiso. E quindi il barone von Glöden in Sicilia, a Taormina e quant'altro. Io quando ho letto mi sono sentita proprio vista restituire un Byron che non conoscevo, ed è trascinante questo giro del mondo con gli occhi di Fletcher, questo giro del mondo di Byron, intanto in fuga anche da questa situazione barbarica delle pene per la sodomia nel suo paese, e poi sempre dietro l'amore per un maschio. Questo è veramente trascinante, è molto commovente, e poi soprattutto lo ritroviamo adorabile, amabile. Sì, conosco Byron, lo studio, lo traduco da decenni, però devo dire che in questi ultimi 3-4 anni, insomma, in cui ho scritto questo libro, rileggendo appunto l'epistolario, tante cose, veniva fuori una persona deliziosa proprio per l'entusiasmo che metteva nelle cose e per questo cruccio enorme che si portava dentro, perché quello di non poter essere se stessi e di doversi sempre mascherare. Beh, il gastolo. È qualcosa di tremendo, e Byron fugge, la sua è una vera e propria fuga dalla gogna e dall'impiccagione, perché non avevano pietà, non c'era classe sociale che permettesse la scappatoia, semplicemente la persona molto ricca riusciva a pagare una fortissima cauzione, ma doveva fuggire all'estero e restarci, non tornava più in Inghilterra. Capitaneria di Porto, interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre per dare la linea alla pubblicità. Riattiveremo il collegamento tra qualche minuto. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поешь. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовешь? Non so da dove cominciare. Lei si rende conto di quanto sto male, ma è irremovibile. Mi dice che non sa spiegarselo nemmeno lei. Ha incontrato questa persona, ne è rimasta turbata, o come dice esattamente lei, ha sentito un turbamento che non conosceva. Vuole provare a vivere questa cosa assolutamente. Tenere conto che circa 10 giorni prima avevamo avuto un ottimo weekend. Mi dice di mettermi il cuore in pace e, udite udite, anche se con lui non andasse bene, con me non ci pensa proprio a tornare. Cosa avrò fatto mai di così grave? Nemmeno mi avesse trovato a letto con sua madre. Questo è solo l'inizio. Mi fermo qui. La firma è R, un grosso R. Questo è un primato. È la lettera più lunga e dettagliata che sia mai arrivata al Faro, dove per pagine e pagine questo ascoltatore addolorato racconta di come lei lo abbia lasciato per un altro e si lancia in una lunga requisitoria in cui lui è la parte offesa, puntigliosamente raccontando ogni episodio a suo carico. Per leggere l'intera lettera credo ci vorrebbero circa 3 o 4 puntate della Guardiana del Faro. Con tutto il rispetto per la tua sofferenza, R, ma se sei così puntiglioso con noi e anche, scusami, un tantino pedante, ma cosa dovevi essere con lei? Ripeti continuamente, udite udite, ma io con chi sono stato io per 10 anni? Forse ti dovresti chiedere anche con chi è stata lei per 10 anni. Uno che non si è mai voluto accorgere che la storia si stava dissolvendo, che si attacca a questo weekend in cui per la finzione tutto sarà andato bene. Io credo che quest'uomo che lei ha incontrato e che per il momento è motivo per lei di felicità e di liberazione, le abbia dato la spinta per lasciarti, ma lo avrebbe fatto comunque, prima o poi. Lei non t'ha detto sono pazza di lui e tutto il mondo scompare. Lei ti dice, sì, ti dice anche questo, ma molto lucidamente, ti dice guarda che se anche finisse male con lui, io con te non ci torno. Ma come te lo deve dire più chiaro? E allora bisogna prendere atto che le cose finiscono. Tu mi dici cosa ho fatto? Ma niente, non hai fatto niente. L'hai voluto bene, avrei fatto degli errori come facciamo tutti. Ma il punto non è questo, il punto è che le storie o ci sono o non ci sono. Se anche tu avessi tutte le ragioni del mondo, e sicuramente alcune le hai, ma questo non cambia niente. C'è un atto che prima o poi bisogna decidersi a fare, per la propria salute, ed è capire che è inutile appellarsi a ciò che è stato, montare un processo minuzioso e proclamare il martirio. Capire che la bellezza, la dura bellezza delle cose, è nel loro fluire. Tu sei fermo a una visione di te e di lei che non è più vera. È come se fossi rimasto prigioniero di una vecchia foto che sta ferma, che non cambia mai. Ed è la foto di voi due quando c'era, quando eravate gioia e respiro l'uno per l'altro, quando non c'erano spiegazioni né rinfacci. Ma i vivi si muovono e lei è diventata un'altra e se n'è accorta e ha avuto la saggezza di cambiare strada. E anche tu sei diventato un altro, ma non ne hai ancora preso atto. Non vuoi conoscere il nuovo R che sta uscendo da questa situazione. E guarda R, quando lo farai, io credo sarà per te un momento durissimo e importantissimo. Ti scoprirai, entrerai finalmente nel dinamismo dei tuoi giorni. Non essere testardo, non cullarti in questa realtà virtuale, non vivere di autocompatimento, non tumularti nelle tue ragioni, sappi cambiare. Oh, c'è un mio amico, si è operato di cataratta, entusiasta. Dice, sai, adesso rivedo i colori. Ecco, guarda, io credo che se prenderai atto della realtà, per te sarà proprio così. Rivedrai i colori, entrerai nella vita. Ho ospitato in città mia cugina, che finora avevo sempre visto in vacanza nella casa al mare, nelle nostre estati all'antica tra famiglia e amici, una baraonda brillante, spiritosa, affettuosa, ed ero contenta di conoscerla un po' da vicino. Ho avuto una sorpresa. Mi sono trovata davanti una depressa, di quelle che fanno il muso e pare che ce l'abbiano con tutto il mondo e specialmente con te. Si è rivelata la regina della lagna, una fabbricante di sensi di colpa. Aveva sempre o il mal di testa o il mal di pancia e pareva fosse colpa mia. Si trascinava oziosa dal letto al divano, sciatta, spettinata. Monopolizzava l'attenzione sui suoi piccoli malesseri. Le ho citato una tua frase in cui consigliavi di non ascoltare i pettegolezzi del corpo. Non mi ha parlato per 2 giorni. Non si poteva mettere musica o parlare ad alta voce perché le veniva il mal di testa. Ci aveva incupito tutti. Casa nostra era diventata silenziosa e triste. Poi è arrivato mio fratello, che a sua volta ospitava due compagni di università, ed eccola che torna come la conoscevo, allegrissima, brillante, ben vestita, truccata. Metteva la musica alta, ballava con loro in salotto. Casa nostra era diventata una discoteca. Ci sono rimasta male. Perché proprio a me ha riservato la sua parte più brutta? Gliel'ho detto e abbiamo litigato. Fabiana. No, sai, non è che sia un'ipocrita tua cugina, è fatta così. Conosco anch'io, non tante devo dire, però conosco donne che esistono solo davanti ai maschi. Così come gli oggetti di una stanza si mostrano soltanto alla luce. Non lo fanno apposta. La presenza del maschio le fa vivere, le mette in moto come dei giocattoli fatati. Una mia conoscente, una maliarda famosa, quando sta con una donna, per esempio con me, e si affloscia come una marionetta abbandonata dai fili. Ed è così. Quei fili per alcune li tengono solo i maschi. E basta. Sono creature a senso unico. Certo t'arrabbi e ti ingelosisci pure. A te dà gli sbadigli e il mal di pancia. Coi maschi ha perfino spirito. Non le badare più. Non ti tratterà mai come un uomo. Ho 30 anni e sono ancora vergine. Mi piace un ragazzo. Da quando l'ho visto è scattato qualcosa di nuovo, emozioni mai provate. La sua ragazza mi considera un'amica. Crede che io abbia un amore e quindi una vita normale. Lui non sa che io non ho ancora fatto nulla con nessuno. Mi aiuti. Se non sarà con lui, sarà con qualcun altro. Come dovrò comportarmi? Come farò a spiegare a un ragazzo d'oggi quello che non ho mai fatto con altri? Mi dico che magari recitando, facendo finta di averlo già fatto, non si accorgeranno. Mi dica, un uomo se ne accorge per forza se una ragazza non ha mai fatto l'amore con qualcuno? Ho bisogno del suo aiuto. Non posso parlarne a nessuno, perché non ho nessuno a cui dirlo. Con tanto affetto, Anna. PS. Non sono brutta, anzi. Rispondendo alle lettere qui a Radio 24, ma anche alla rubrica Le verità sull'amore che tengo sul settimanale A, scopro che tanti ragazzi e ragazze sono nelle tue stesse condizioni. Ho ricevuto lettere di giovani che più vanno avanti, più si sentono dei mostri unici al mondo. Invece la solitudine è di molti. Ed è di molti quella cara frase straziante che scrivi alla fine. Non posso parlarne con nessuno perché non ho nessuno. Perché la tua verginità del corpo è anche una verginità dei rapporti umani. La persona che ti scoprirà o dalla quale ti farai scoprire avrà il privilegio di iniziarti non solo al sesso, ma anche allo scambio dei sentimenti. La tua lettera farebbe la gioia di uno studioso dei costumi, perché è l'esatto contrario del problema più diffuso 40-50 anni fa, quello di non essere più vergine per una ragazza. La ragazza di allora avrebbe scritto, e tante ne ho lette indirizzate, non so, a Brunella Gasperini, mi dica, un uomo se ne accorge per forza se una ragazza ha già fatto l'amore con qualcuno? E questa era una domanda più angosciosa perché si riferiva a un costume repressivo e crudele dove lui ti avrebbe dato della puttana e insultato e non più sposato. Ma nel tuo caso la risposta è se è un bruto non si accorgerà nemmeno di chi ha di fronte, ma se ha qualche sensibilità capirà questa tua verginità totale. Ma scusa, dopo aver aspettato tanto non mi pare il caso di fingere. Dopo aver aspettato tanto fallo bene se lo fai. E bene vuol dire manifestarsi per intero, donarsi. Perché dovresti fare la commedia dell'esperta? Smetti di considerare la verginità un marchio d'infamia. È una qualità della tua persona, è la tua storia. La legge della normalità impone oggi la cosa più ridicola del mondo, la sanità sessuale. Ma cosa vuol dire? Io credo, come ho detto altre volte, che l'immaturità sessuale sia un diritto. E per natura il risveglio erotico avviene nella prima adolescenza, ma le nostre vicende personali possono ingarbugliare di molto le date. Tu sei riservata, ma sei generosa anche. Sei ipersensibile, un po' matta. Quando fai finta di avere un ragazzo per coprire la tua macchia, renditi conto del tuo fascino, ma non per diventare presuntuosa, ma sorridente. Cara Barbara, mia madre mi chiama e mi chiede la cortesia di guardare se sul suo cellulare trovo il messaggio di un suo collega in ritardo sul lavoro. Non lo trovo, ma leggo il primo messaggio che inequivocabilmente mi rivela esserci una relazione tra lei e un altro uomo. A questo ne seguono altri in cui i due comunicano i loro spasimi amorosi tra le righe dei versi delle più belle canzoni di De André. Non ho continuato la lettura perché ero nauseata. Ora, non bisogna essere degli esperti freudiani per capire che più o meno inconsciamente lei ha voluto mettermi al corrente della sua liaison. Già in passato si era sfogata con me raccontandomi di un altro uomo e io l'avevo ascoltata e capita. Avevo fatto di tutto per non giudicarla perché pensavo si fosse trattato di una specie di crisi di mezza età. Adesso però sono senza fiato. Mi chiedo come possa dormire con mio padre ogni sera, come se niente fosse, e allo stesso tempo sono furiosa perché come figlia mi sento presa in giro e usata. So che i genitori non sono cavalieri senza macchie e senza paura e che bisogna comprenderne le debolezze, ma non riesco a dimenticare i sotterfugi e le parole di De André, che tanto amo, profanate così. Non potrò più ascoltarle? Avrò ancora stima di lei? E posso davvero pensare di non dire niente né a lei né a mio padre? Sto preparando un esame su Tristano e Isotta e rivaluto la figura di Re Marco. Adele. Beh, tua madre è veramente una grande sfacciata. Io mi meraviglio sempre, anzi, mi scandalizzo, dell'immaturità dei genitori moderni. Siamo andati da un estremo all'altro, brutti tutti e due. Ai miei tempi i genitori facevano finta che il sesso non esistesse. Questi qui di oggi o non hanno una loro vita sessuale e si impicciano di quella dei figli, diventando dei guardoni professionisti, oppure, se ce l'hanno, la devono sbattere in faccia ai figli. Mi disgusta questa incontinenza sentimentale, questo andare allegramente oltre la decenza, perché visto che vivi con tuo padre e lei dorme con lui, ma come si permette di tirarti dentro? Di fatto fa di te la tua complice, perché sa bene che non lo dirai a tuo padre e che però ti costerà. Che tu glielo dica o no, e spero bene che non lo farai, perché se lo scopre da sé è un conto, ma saperlo dalla figlia è una umiliazione troppo grande. E comunque ti mette davanti a una scelta in ogni caso odiosa. Mette le corna al marito, che sia all'altezza almeno di questo, di seguire la linea dell'ipocrisia che mette in atto con lui. Chissà perché questa specie di vanteria, ma una rivincita sulla tua giovinezza, chissà. Frivolezza, stupidità, ocaggine. A tuo padre no, ma a tua madre però devi parlare come, che si renda conto almeno del rispetto che ti deve, anche se ormai il male te l'ha fatto, e comunque ora tu sentirai la finzione in ogni gesto e ne soffrirai. Oh, deliziosa la nota su Tristano Isotta e la tua simpatia per Re Marco, anche se lì è tutto molto più meccanico, perché la giustificazione degli amanti è nel filtro. Altri due che non hanno il coraggio, come nella serie Beautiful, che quando facevano qualcosa di importante erano tutti sotto l'effetto di qualche farmaco o dell'alcol, per cui non erano. Tristano e Isotta sono due involontari dell'amore. Sono due che senza il filtro non si sarebbero neanche guardati. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поешь. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовешь? C'è un'ascoltatrice anonima da Pavia che ha 22 anni e non sono capace di amare, ne sono certa. Sono stata illusa in passato da un ragazzo di cui ero davvero infatuata. Ma da quel momento in poi, per difesa, non sono più riuscita, non dico ad amare, e nemmeno ad apprezzare nessun altro. Lui non mi manca, non lo penso più, ma mi ha lasciato arida. Ho provato a frequentare altri, ma do un'impressione di distacco e freddezza, per cui vengo lasciata senza troppe spiegazioni. Io vorrei davvero trovare qualcuno da amare, ma non so se aspettare o sforzarmi di fingere. Ma... ti rispondo perché abbiamo fatto voto con Gloria Guerrera di rispondere a tutti quelli che ci scrivono. Però, anonima di Pavia, tu mi stai parlando di un non problema. Non è che non sei capace di amare, è che non ti è mai capitato. Ma tu, dopo qualche esperienza poco sentita, subito ti promuovi a caso difficile e ti rendi più interessante a te stessa immaginandoti questa anomalia. Ma che significa vorrei trovare qualcuno da amare? Quando lo troverai te ne accorgerai. Dovresti prima alzare gli occhi smettendo di guardare sempre il tuo ombelico, che c'è poco da vedere. Magari sarà anche attraente, ma è piccolo piccolo. È tanto più vasto il mondo. E poi l'idea di fingere, perdonami, è semplicemente cretina. Ho cercato di salvare la mia amica da quell'uomo, ma non c'è stato niente da fare. È andata verso la rovina, eppure aveva delle grandi capacità. Prima si è rovinata economicamente e per i debiti di gioco Lui aveva tutti i vizi. Dovevano traslocare di continuo. Ha rotto con i parenti, con gli amici, meno io, che ci ero affezionata davvero. Lui adesso è andato in Costa Rica, ha aperto una pizzeria, sta con una più giovane. La mia amica, ormai 58 anni, tardi per ricominciare, è stata colpita da un grave male. Sono andata a trovarla all'ospedale e nemmeno allora ha voluto parlare male di lui, che non si fa vivo e mai la va a trovare. Anzi, io insistevo per liberarla del tutto. Allora lei si è proprio incazzata. Ha detto: «Tu, disgraziata, non ce l'avrai nemmeno in tutta la vita, un momento solo di quelli che io ho avuto con lui». Lo ama ancora, quello che più mi indigna, con una certa allegria. Che posso fare? È una pena vedere come sia schiava di una illusione umiliante, che non ha più ragione di esistere. Io ti risponderei che sei stupida, cattiva e ladra, e invidiosa senza fine. Ma come, quella tua amica ha perso tutto, sta quasi per morire e tu le vuoi rubare l'amore per lui, che la sostiene, che dà un senso ai suoi respiri, che la farà morire contenta. Lei sta un palmo sopra di te comunque. La sua unica sfortuna è conoscerti. Per il resto, anche nell'abbandono, è una donna fortunata. Non delira, è nel pieno della ragione. Tu vedi la sua storia con occhi normali, cioè da giudice, da boia domestico, che sogna per gli altri la tranquillità, quando invece la tua amica è stata benedetta dalla passione e trascinata da una forza che tu non hai mai conosciuto. Tu non lo sai perché pensi all'ordine, alla forma, ma ci sono uomini così affascinanti, e anche donne, che tutto il resto si ferma e diventa brutto. Ci sono mascalzoni e mascalzone di giocatori così deliziosi. Come mai sarà un buon padre di famiglia? Ci sono uomini che ti spogliano di ogni tuo bene e in cambio ti danno l'immaginazione, ti danno la vita. La tua amica è forse più felice adesso di quando era con lui, perché adesso è finita ogni scossa, è finito il ritmo frenetico dei traslochi, dei debiti, dei trambusti, degli ufficiali giudiziari, e adesso gode pienamente nella sua malattia dei ricordi. Perché dovrebbe maledire l'unico che l'ha divertita, che non ha fatto la commedia con lei, che l'ha portata con sé nel bene e nel male? Perché la vuoi pentita? Ma pentiti tu d'essere così insensibile e bigotta. Pentiti tu che invece di libri, fiori, sorrisi, le porti il cappuccio della penitenza. Ti pare che abbia goduto troppo? Ma non lo sai che ogni felicità è in sé anche un grande castigo? Tu dovresti andare a scuola da lei, ascoltare la sua serenità di persona forte. E persino adesso, che è nel momento della massima debolezza, come un inquisitore tu le mostri il cappuccio della penitenza. Tu vuoi la biura, non l'avrai, e comunque smetti di chiederla, perché stai facendo veramente un'operazione di morte. Cara Barbara, senti che bel trucchetto aveva trovato il mio ragazzo, 3 anni di convivenza, per farmi le corna. Andava a giocare a carte da un amico, ed era vero. Io potevo telefonare quando volevo, lui era sempre lì. Ma lì c'era anche la sua amante. L'amico faceva da ruffiano, usavano la sua camera da letto. Quando l'ho scoperto, me l'hanno detto uno che li ha visti a letto, lui mi ha fatto una scenata, ha detto che era vero, ma che lui ci era stato costretto perché io lo sorvegliavo troppo. È lui che mi teneva chiusa in casa, e guai anche alle telefonate. Ci dovevamo sposare. Lui dice che l'altra non conta, ma per me conta, e tanto. Dice che non la vede più. Marvi. No, senti Marvi, ma ti sembra una grande partenza per un matrimonio? Quello che lui ha perpetrato è stato un inganno ben congegnato, non è stata, come si dice con una parola che detesto, una scappatella. Lui aveva l'intenzione evidente di truffarti e anche di farti ridere dietro dagli altri, perché la complicità degli amici denota una grande mancanza di rispetto per te. Non è stato un colpo di testa. Lui ha creato una piccola associazione a delinquere che si è formata alle tue spalle. Ah sì, adesso ti dice l'altra non conta? E allora perché mobilitava tutta quella messa in scena? Per non essere scoperto da te che invece sei quella che conta? Io conterei fino a 1.000.000 prima di dirgli di sì, e poi gli sbatterei la porta in faccia. Allora, saluto e ringrazio Massimo D'Onofrio, Francesca, Chris, che mi scrivono tutti la stessa cosa: se posso prendere in mano i loro libri in fieri e occuparmene. Ecco, scusate, io l'ho detto 1.000 volte. No, io questo non lo faccio, perché è un lavoro enorme. Non parliamo poi di aiutare a pubblicare, che mi fa venire la pelle d'oca solo a pensarci. Le poche volte che ci ho provato ho avuto degli smacchi terribili. e ho scelto queste lettere fra tante che arrivano. Non contate su di me, io ci vedo da un occhio solo, ho poco tempo. Io ho pubblicato da poco un libro e sopporto con una leggerezza che mi sorprende il silenzio che accoglie i miei libri. Si chiama Per informazione e amore il mese più crudele. Ma a me non mi va di fare la madrina, ho poco tempo. Voi non avete idea del patrimonio di tempo che chiedete, ma anche di coinvolgimento emotivo. Io non sono innamorata di voi. Lo farei solo in questo caso. Dovrebbe essere un motivo di vita per me fondamentale, per strapparmi ai libri che sto scrivendo, facendo le corse con la morte, occupandomi di altri. Io credo anche un'altra cosa, che scrivere sia un'impresa solitaria. Ecco, accollatevi i vostri libri, prendetevi sulla schiena non solo il piacere della scrittura, la fatica della scrittura, ma anche sappiate stare soli con i vostri libri. Non contate su di me. Questa poesia si intitola La porta e l'ha scritta Winston Hugh Oden. Esce da questa il nostro futuro. Escono enigmi, carnefici e regolamenti. Sua maestà di cattivo umore o un naso rosso buffone che si burla degli stolti. I grandi la tengono d'occhio nel crepuscolo perché sbadatamente potrebbe dare accesso a un passato. A una vedova dalla grinta missionaria, all'inondazione spumeggiante del mare. Impauriti vi ammucchiamo contro tutto il nostro avere e picchiamo i suoi battenti quando moriamo. Una volta capitò che fosse aperta e fece vedere all'immensa Alice un mondo meraviglioso che l'attendeva nel sole e, semplicemente perché era così piccolo, la fece piangere. I preparativi. Poesia di Winston Hugh Oden. Tutto era stato ordinato settimane prima della partenza, dalle migliori ditte per una tale impresa. Strumenti per misurare tutti gli strani eventi e medicine per le viscere o il cuore. Un orologio, naturalmente, per sorvegliare il volo dell'impazienza. Lampade per il buio e schermi contro il sole. I presagi, inoltre, raccomandavano un fucile e perline colorate per blandire occhi selvaggi. In teoria, la loro aspettativa sarebbe stata giusta, vi fossero state situazioni in cui trovarsi, ma essi stessi, purtroppo, erano la loro situazione. E non si danno medicine a un avvelenatore, né delicati congegni a un illusionista, né un fucile a un individuo malinconico. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti ideato da Gianluca Nicoletti a cura di Gloria Guerrera.